La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, grazie come sempre per l'ascolto in diretta o in podcast qui alla versione di Oscar da Oscar Giannino, e l'indirizzo la versione di Oscar che oggi è radio24.it e 16:30 primi 40 secondi. Vi dico subito di che cosa parliamo oggi. Siamo proprio sull'attualità, perché stamattina è stato presentato un documento che è ai miei occhi e di un certo interesse, diciamo così. Parleremo di economia della cultura. Di che cosa si tratta? Si tratta di un passo avanti importante per consentirci di capire per i musei italiani, in questo paese che ha uno dei patrimoni più grandi e rilevanti, importanti al mondo dal punto di vista culturale, museale, eccetera, eccetera, per capire meglio la spesa e le risorse a disposizione di ciascuno di questi. Siamo lontani dal dire di ciascuno di questi, però quello che importa e che è rilevante è un primo passo avanti compiuto esattamente in questa direzione, perché solo avendo una rendicontazione comparabile tra tutti di quanto spendono, da dove vengono le risorse, riusciremo un giorno, ma adesso intanto cominciamo a poterlo fare, a fare comparazioni davvero fondate e non approssimative sull'intero sistema dei musei italiani, ma per singola tipologia e per diversa gestione di ciascuno di loro, di a che punto siamo rispetto agli altri modelli praticati nel mondo per mettere a reddito al meglio il patrimonio. Innanzitutto, i bilanci sono in equilibrio, ma che percentuale sul totale delle entrate viene dai trasferimenti pubblici? Che percentuale invece viene dagli introiti, non solo da bigliettazione, ma anche dalla capacità di offrire servizi all'interno dei musei? Si tratta di capire da una parte come vengono spese le risorse, ma dall'altra di riflettere meglio su quali altri passi compiere per coinvolgere più e meglio i privati, senza naturalmente intaccare minimamente la proprietà del patrimonio, ma con l'idea che l'ottimizzazione A delle risorse esistenti, B la riflessione su come riuscire ad attirarne dall'economia e dai privati di più e meglio, possa far crescere la fruizione, la proiezione in Italia e nel mondo del nostro patrimonio. Quindi è una battaglia importantissima, come è evidente. Il problema è che noi avevamo una grande opacità rispetto ai conti di ciascuno dei musei italiani. Allora, qual è il passo avanti che oggi si compie? Il passo avanti che oggi si compie è un effetto della riforma complessiva del sistema che è stata varata dal governo Renzi, perché nel 2016 è stato il primo anno completo, no, di attività dopo la riforma fatta dei musei dotati di autonomia speciale, dei poli museali regionali. E stamattina al Ministero è stata presentata il termine della prima fase pilota di definizione di un modello standard di rendimento economico integrato, che l'idea è di estendere a tutti i musei italiani. La particolarità è che questa fase pilota di redazione di documenti economici e contabili comparabili viene a propria volta avviene grazie all'iniziativa di privati, perché Civitas, l'associazione Civitas, che forse molti di voi conosceranno, qualcuno di voi conoscerà, chi non la conosce vada sul sito a vedere, ma insomma l'associazione Civitas, che nasce qui a Milano in Lombardia, è da molti anni una associazione assolutamente meritoria, che si è data da fare coinvolgendo cittadini, professionisti, imprese, studi professionali e così via, con l'obiettivo di dare una mano concreta alla trasparenza e alla omologazione dei conti pubblici italiani, quelli degli enti locali, quelli delle società partecipate e così via. Da molti anni si batte per questo, su progetti concreti che sottopone e propone, e talora vengono sposati anche dall'amministrazione pubblica, ed è esattamente quello che è avvenuto con il Ministero, con il MIBAC, che ha accettato i criteri di proposti da Civitas insieme a Boston Consulting in un confronto diretto per la redazione di questo standard comune di rendiconto economico, e è stato fatto un primo esperimento pilota di cui oggi sono stati, quindi con solo alcuni musei di tipologie diverse, dei quali oggi è stato presentato al Ministero il rendiconto economico di ciascuno di loro, con l'idea poi di estenderlo sempre di più nel tempo a tutti i sistemi. Allora, da una parte parliamo di questo, ma dall'altra già il fatto di avere i rendiconti di questi primi pilota che si sono resi disponibili a farlo sul rendiconto 2016 e sul preventivo 2017 già ci consente di fare alcune riflessioni in termini comparati su il modello italiano da una parte e i modelli praticati in altri paesi avanzati dall'altra, per capire come procedere sul percorso poi della messa a reddito. Allora, abbiamo come ospiti da una parte, per conto appunto di Civicum, perdonate, ho detto Civitas prima, di Civicum, il presidente Stefano Cianchi. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Grazie Oscar, molto piacere di essere lì con voi. E dall'altra l'abbiamo già sentita, invitata in trasmissione, il presidente di Confcultura della Fondazione Industria e Cultura di Confindustria della Fondazione Museo Marino Marini a Firenze, Patrizia Sproni. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buonasera. Allora Cianchi, come nasce all'inizio l'idea di Civicum? Beh, l'idea nasce dalla carenza di dialogo fra le amministrazioni, specialmente locali, e i cittadini, un vuoto di informazione che è difficile da colmare, perché non si può pretendere che tutti i cittadini dedichino un tempo infinito alla comprensione dei conti economici o delle logiche delle amministrazioni, e d'altra parte i direttori o i responsabili di ciascun ente hanno avuto nel passato maggiore interesse a parlare ai loro capi piuttosto che a parlare ai cittadini, e quindi questo buco di informazione andava colmato. Bisognava avvicinare i cittadini alle amministrazioni pubbliche e viceversa. Su che cosa? Su qualcosa di standardizzabile con un linguaggio semplice, che è quello dei numeri, cioè il rendiconto economico. Perché i musei naturalmente sono di tipologie diverse, ci sono i musei autonomi, la fascia più elevata, che sono dotati di autonomia speciale, ci sono i musei assegnati ai poli regionali senza autonomia, c'erano diversi sistemi contabili, perché c'era chi era sottoposto alla contabilità dello Stato rispetto a chi invece aveva i bilanci approvati in maniera diversa rispetto alle diverse autonomie a cui faceva riferimento, e quindi era necessario questo rendiconto. Il progetto pilota ha riguardato la Galleria Borghese, la Pinacoteca di Brera, le Gallerie Estensi, e poi, e questi sono musei autonomi, e poi due poli museali regionali, quello della Puglia, che racchiude appunto 12 siti diversi, e quello dell'Umbria con 8 siti. Ecco, Cianchi, se andiamo a vedere i documenti che avete presentato oggi per ciascuno di loro, quali considerazioni fate voi di Civicum in termini generali? Ma diciamo che il fattore notizia più importante è che queste cose esistono. Primo. Il fatto che esistano cambia moltissimo sia l'atteggiamento delle persone, sia i comportamenti anche dei cittadini nei confronti dei singoli direttori. Io mi chiedo, per esempio, come si possano raccogliere fondi a sostegno della Pinacoteca di Brera, per fare un esempio, se i cittadini non capiscono bene che cosa stanno finanziando. Ho citato la Pinacoteca di Brera perché è quella fra tutti che è più capace di attrarre fondi. no? Però stiamo parlando ancora di cifre veramente minime rispetto a quanto possono fare i cittadini. La riforma Franceschini cosa ha fatto? Ha, fra le altre cose, dimostrato che gli italiani hanno piacere di vivere la propria cultura, ma non secondo gli schemi un po' polverosi degli esperti, che per carità fanno un eccellente lavoro, però al cittadino non possiamo chiedere di fare l'esperto o di visitare nel silenzio cupo delle gallerie le loro opere d'arte. Magari hanno piacere anche di godersi, no, queste opere, queste belle cose, anche solo facendo una breve visita ed essere accolti in un luogo simpatico ed accogliente, no? Che vuol dire raccogliere fondi per l'ente che accoglie i propri visitatori. Ecco, diciamo che leggere i numeri vuole anche dire avvicinare i cittadini e renderli più propensi a cooperare con i loro musei, con i loro tribunali, con le loro scuole, in questo caso con i loro musei. Questa è forse la notizia più importante. Allora, già andando a vedere per queste cinque tipologie diverse di questo esperimento pilota, ripeto, Galleria Borghese, Pinacoteca di Brera, Galleria Estensi, Polo Museale della Puglia e Polo Museale dell'Umbria, se uno va a vedere la ripartizione generale di entrate per provenienza e costi per tipologia, capisce che siamo comunque in presenza di tipologie molto diverse. Faccio qualche esempio, numeri alla mano, no? Nel caso della Galleria Borghese a Roma, se andiamo a vedere con ricavi per 8,6 milioni di euro l'anno 2016, se andiamo a vedere sul totale di questi ricavi, i contributi da privati pesano solo lo 0,6%, i trasferimenti pubblici pesano per il 47%, le entrate proprie pesano per il 52%, 52,2%, quindi c'è una elevatissima, comunque una elevata, diciamo così, capacità di generare entrate proprie. Se andiamo a vedere le entrate proprie generate dalla Pinacoteca di Brera, che ha 12 milioni di euro di ricavi, già scendono dal 52,2% della Galleria Borghese al 16,1% del totale di questi 12 milioni di ricavi. Se poi andiamo al Polo Museale dell'Umbria, i contributi da privati diventano il 4,1%, però le entrate proprie, anzi solo il 4,1%, contributi da privati praticamente zero su 5,2 milioni del Polo Museale dell'Umbria dei ricavi. Idem, Polo Museale della Puglia, i trasferimenti pubblici diventano l'87% del totale dei ricavi, entrate proprie il 12,9%, ricordatevi 52,2% alla Galleria Borghese, contributi da privati praticamente zero. Gallerie Estense, trasferimenti pubblici sono il 96% del totale dei ricavi di 8,1 milioni annui, le entrate proprie l'1,6% solo, ricordate sempre il 52,2% di entrate capaci di essere generate dalle iniziative della Galleria Borghese, qui sono 1,6%, contributi da privati 2,5%. Come si vede, già andando a vedere il totale dei ricavi, chi tra i primi cinque esempi mostra nei propri conti una notevole capacità come modello organizzativo di generare entrate proprie, beh, è una minoranza, un caso su cinque, e poi si arriva anche a cifre modestissime, e i contributi da privati comunque sono modestissimi. Allora, partiamo da questo, Patrizia Asproni, che cosa ci dice questa differenza, e con una preponderanza che diventa così elevata di trasferimenti pubblici sul totale dei ricavi, fino al 96% delle gallerie estense, ma nel caso della Galleria Borghese sono solo il 47%. Asproni, che mi dice? Ma intanto mi permetta di congratularmi col dottor Cianchi, perché quello che Civicum ha fatto io lo trovo, devo dire, straordinario. Anni di tentativi da parte del settore pubblico di creare una parametrazione, diciamo così, dei bilanci è sempre andata a vuoto. Il fatto che anche questa volta tutto questo studio e questo sforzo sia venuto dai privati, quindi peraltro dal basso, diciamo così, verso l'alto, certo. Questo è stato, secondo me, è veramente un'azione benemerita. Tantissimi anni fa, insieme peraltro ad Arte Economy 24 del Sole 24 Ore, avevamo tentato di procedere con una sorta di CERVED dei musei, non c'eravamo riusciti. Il fatto che un'associazione rendiamo privati... anche atto, tra l'altro, al Ministero, che questa volta si è aperto e ha detto no, andiamo avanti, iniziamo davvero, facciamo una convenzione e estendiamo questo modello, perché prima era quello il problema. Esatto, era quello il problema, le resistenze. Adesso diciamo che questa riforma è stata un po' un vaso di Pandora, sta aprendo vari fronti. E quindi, come dire, anche ho torto collo a volte, ma c'è una grandissima apertura e disponibilità, soprattutto nei vertici, ci sono ancora un po' di resistenze invece verso il basso. Cosa ci dicono questi parametri? E qui sono di nuovo d'accordo con il dottor Cianchi. Il fatto di avere i dati così immediatamente visibili e confrontabili ci permette appunto di capire dove ci sono le sacche di resistenza, dove ci sono le cose che funzionano, dove funzionano meno. E questo per i privati è fondamentale, sia per i cittadini che vogliono contribuire, ma anche per chi vuole investire. In questo modo si sa benissimo, voglio dire, dove si può investire, in quali musei si può investire e quali invece occorre fare un altro tipo di azione, evidentemente. E questo è un altro punto molto importante, perché dove noi vediamo appunto il polo museale dell'Umbria che lei stava citando, in cui il 96% sono ancora trasferimenti pubblici ed è praticamente il contributo da privato non esiste, qui si apre, voglio dire, un mondo, e vuol dire che c'è anche una enorme potenzialità, ma finalmente riusciamo a vederlo. Peraltro questo è appunto una prima fase del progetto pilota che io mi auguro veramente possa essere estesa non soltanto a questi 31, ma a tutti quanti, perché soltanto in questo modo, ripeto, si riesce a parlare di investimenti e di azioni da parte dei privati. All'estero sì. Questo è si viene fatto da anni. Una cosa che io ho ancora trovato che è problematica per noi è la parte che riguarda i dipendenti. I dipendenti sono ancora una voce in questi bilanci che è generale, perché ovviamente i dipendenti appartengono tutti al MIBACT direttamente, quindi allo Stato, e non c'è autonomia gestionale per quello che riguarda i dipendenti anche all'interno dei musei che hanno, come dire, che sono stati definiti autonomi. Questo naturalmente, a mio parere, all'interno di un bilancio coerente, naturalmente, come dire, è chiaro che questo è un primo passo, ma dovrà essere fatto questo sforzo anche abbastanza velocemente. Bisognerà invece inserire i dipendenti all'interno dell'autonomia e all'interno della singola gestione del museo, perché altrimenti si falsano anche i dati e spesso poi questo non permette neanche economie di scala, ma questo diventa poi un problema gestionale. Allora, un minuto di pausa per il traffico, poi abbiamo visto, veramente solo una slide, quella su... i ricavi comparati di questi primi 5. Adesso poi andiamo ai costi per capire bene anche qui cosa vogliono dire le cifre che vi riepilogherò dopo il traffico. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta per questa novità presentata oggi, cioè questo progetto pilota che consente di iniziare all'inizio solo con 5 musei di tipologie diverse, ad avere un rendiconto economico sui conti 2016 e preventivo 2017, però assolutamente omologhi, e che ci consente di capire meglio come si spende e chi è capace di generare risorse proprie aggiuntive rispetto ai trasferimenti pubblici. Si deve alla proposta accolta, per fortuna, e meno male, questo è un vero passo avanti, lo abbiamo già spiegato, dal Ministero come un modello da estendere a tutto il sistema per renderlo trasparente agli occhi dei cittadini, ma per consentire di avere degli indicatori omologhi per capire dove le risorse si possono concentrare meglio, come bisogna fare per attirarne di più. dei privati. Prima vi ho riepilogato sinteticamente le diverse ripartizioni delle entrate per provenienza, e da una parte abbiamo visto ci sono degli esempi di cui oggi sono stati resi noti i criteri del rendiconto economico integrato: la Galleria Borghese, che ha sul totale dei suoi ricavi solo il 47,1% da trasferimenti pubblici, rispetto al Polo Museale dell'Umbria che ha il 96% invece delle sue entrate solo da trasferimenti pubblici. Non è un caso, ma invece è evidente che c'è una correlazione diretta, se non una causazione, che se dai ricavi passiamo ai costi, ecco che la Galleria Borghese, che è quella più capace di generare entrate proprie, perché fa tra entrate proprie e contributi da privati il 53% del totale dei suoi ricavi annuali, è anche quella in cui i costi di struttura sono i più bassi in percentuale sul totale dei suoi costi, perché sono il 77%, è una cifra molto elevata, però rispetto a quella del Polo Museale dell'Umbria, che ha 98,6% costi di struttura sul totale dei suoi costi, capite che c'è una differenza di molti punti. E infatti la Galleria Borghese, che spende in costi di struttura il 77,2% del totale dei suoi costi, è quella dei 5 con la più alta percentuale invece dei costi in attività istituzionale, promozione, insegnamento, valorizzazione attraverso iniziative con interlocutori diversi, pubblici e privati, di quello che offre a chi la visita. Il 14% dei suoi costi vanno in attività istituzionale. Nel Polo Museale dell'Umbria, dove quasi il 99% dei suoi costi va in costi di struttura, questa voce non è il 14% tra i suoi costi, ma lo 0,5%, praticamente nulla. E quindi si capisce che chi ha il totale di trasferimenti quasi solo dai trasferimenti pubblici e bassissima capacità di generare entrate aggiuntive proprie spenderà praticamente tutto solo in costi di struttura con bassa capacità di attrattività. Ma a questo punto la domanda che faccio alla manager della cultura con esperienza di guida di poli, Patrizia Sproni, è: questo dipende dalla qualità e notorietà più o meno elevata di quello che i singoli musei storicamente offrono, o invece un passo avanti verso costi non immobilizzati integralmente nella struttura per generare e liberare risorse che possano essere spese, quindi costi, ma per attività istituzionale e attrattività, si può applicare un po' a prescindere dall'attrattività? È ovvio che ci sono musei che attirano gente da tutto il mondo e notissimi per le opere che espongono, altri meno, anche se hanno un patrimonio comunque inestimabile storico dei territori. Ma però questa differenza deriva da quello che c'è nei musei o deriva dalla mentalità con cui sono gestiti, Patrizia? Assolutamente dalla mentalità e dalla competenza manageriale. Dove c'è una competenza manageriale o in questo momento diciamo una comprensione di competenza manageriale, le cose sono diverse e sono cambiate. È evidente che questa voce costi per attività istituzionale è una voce che indica sviluppo, mentre invece il costo di struttura è una voce che indica stasi. Lì, come dire, si andrà sempre di più a perdere. È per questo che devo dire questo parametro e questo studio che è stato presentato è preziosissimo, perché in questo modo possono essere davvero finalmente messi a confronto anche istituti diversi. I confronti fra gli istituti saranno assolutamente virtuosi, perché anche fra istituti che hanno le stesse caratteristiche ci sono delle differenze enormi che dipendono esclusivamente dalla capacità gestionale che c'è all'interno. Questo è un grosso problema che spesso, devo dire, adesso soprattutto i nuovi direttori stanno palesando, perché all'interno delle loro strutture non hanno competenze, per esempio, di marketing, a volte non hanno competenze amministrative di un certo livello, ma non hanno soprattutto competenze di sviluppo, e questo in questo momento sta creando una stasi. La cosa positiva, ripeto, è che molti di questi, che sono anche più giovani, diciamo, direttori, sta rilevando questa mancanza e sta chiedendo al MIBAT aiuto in questo senso, o meglio anche possibilità di assumere competenze di questo tipo, perché finora le competenze, come sappiamo bene, soprattutto all'interno dei musei statali, erano quelle di un'accoglienza passiva e non invece di un motore di sviluppo attivo. Pensiamo però in positivo, a quale potenzialità anche per i giovani che comunque hanno oggi degli skills, come si dice, delle preparazioni competenze, di questo tipo, competenze, voglio dire, ci possono essere. Però questo così abbiamo anche un'idea geografica, territoriale, di dove mettere le mani meglio. Cianchi, nella vostra esperienza, preparando questa prima rendicontazione pilota, l'impressione che avete avuto, so che è una domanda impropria, perché questo è un partner ufficiale del Ministero, quindi non è che potete mettervi tanto a rompere le scatole, però l'impressione, dal punto di vista del personale, siccome è sempre un po' scomodo vedersi comparati in termini così precisi, è di un'apertura o ci sono resistenze, Cianchi? Ma intanto, diciamo, l'equidistanza fra le varie opinioni, diciamo, è una caratteristica di Civicum più che una pressione che ci viene fatta dai nostri interlocutori. Verissimo. Questo è chiaro, che noi vogliamo essere assolutamente tecnici e neutri, perché diversamente le nostre ipotesi e le nostre soluzioni verrebbero immediatamente etichettate dal manipolatore di però turno. C'è ancora resistenza? Che impressione avete? No, direi che abbiamo incontrato sempre persone che hanno solo desiderio di fare è questa. Ricordiamoci che i direttori dei musei sono storici dell'arte, oppure se di siti archeologici. Esatto. Come diceva, molte volte in queste trasmissioni abbiamo sottolineato che un po' di economia bisogna entrarla, farla entrare nel mondo della cultura, perché si tratta di gestione. Non sto parlando del privato.